Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Terremoto e tsunami in Indonesia, decine morti e centinaia di dispersi. Secondo il dossier Caritas, sono quasi 5 milioni gli immigrati irregolari in Italia, nel limbo mezzo milione di giovani. Condannato a morte in Iraq Tareq Aziz, l'Unione Europea chiede lo stop all'esecuzione. Pallone d'oro, nessun candidato italiano, ma ci sono 4 interisti. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura un aggiornamento su quanto sta accadendo in Indonesia, dove, come sapete, si è verificato un terremoto che ha anche causato uno tsunami. Al momento si parla di 40 morti e circa 360 dispersi. Sono decine le vittime e centinaia di dispersi causati dallo tsunami che si è abbattuto ieri sera sull'isola Mentawai, un arcipelago a sud di Sumatra, in Indonesia. A innescare l'onda è stato un terremoto di oltre 7,5 gradi sulla scala Richter, il cui epicentro è stato localizzato a 78 km dalle isole. Secondo l'agenzia Reuters, in uno dei 10 villaggi colpiti dalle onde sarebbero già stati recuperati 40 corpi, mentre altri 160 membri di quella stessa piccola comunità sono attualmente dati per dispersi. Tra le possibili vittime del disastro ci sono anche un gruppo di 8, forse 10 surfisti australiani che al momento della scossa si trovavano al largo a bordo di un'imbarcazione di cui non si hanno più notizie. Nell'isola di South Pagai le onde sono arrivate con una tale forza da spingersi per circa 600 metri nell'entroterra, mentre a North Pagai, un'altra isola dell'arcipelago, un intero resort sarebbe stato spazzato via da una serie di onde altre 3 metri, che avrebbero distrutto i bungalow e fatto schiantare le une contro le altre alcune imbarcazioni facendole esplodere. Secondo fonti locali, alcuni dei 380 dispersi potrebbero aver fatto in tempo a mettersi in salvo. Nel dicembre del 2004, le vittime dello tsunami più devastante di sempre, quello abbattutosi su Indonesia, Thailandia, Sri Lanka, India e Maldive, furono 226.000. Marco Masciaga, Radio 24, Sole 24 Ore, New Delhi. Ed ora il dossier Caritas Migrantes 2010, che fotografa la situazione dei nuovi italiani nel giorno in cui il Papa dice no ad ogni egoismo nazionalista e riconosce quello di migrare come un diritto di ogni uomo. Ma il Papa sottolinea anche la necessità dell'accoglienza, che va coniugata con quella di una vita dignitosa e pacifica sia per i migranti che per gli abitanti dei paesi di arrivo. Ma torniamo al dossier Caritas Migrantes. Qui accanto a me Gigi Donelli, che ha seguito la presentazione. Allora, quali sono gli elementi principali? Sì, buongiorno Piera, moltissimi, ovviamente 500 pagine, quindi un vero volume, un racconto della società che cambia. Un primo dato: 20 anni fa erano meno di mezzo milione, sembra incredibile. Oggi sono oltre il 7% della popolazione residente, ci riferiamo solo a quelli regolarmente censiti, quindi 20 volte più migranti in una società che è cambiata radicalmente. Emigrazione diffusa naturalmente non solo in Italia, sono 214 milioni nel mondo. L'Italia è il 12esimo dei paesi di destinazione e studiando il rapporto si vede quanto sia ovviamente proporzionale il successo di un paese alla scelta della destinazione. Quindi essere destinazione di migrazione è anche un indice di un successo economico di una zona del mondo. Ecco, quindi i migrati che arrivano e scelgono il nostro paese, che contribuiscono peraltro al PIL, che fanno parte, insomma, lavorano anche nel nostro paese. Anzi, lavorano e mediamente lavorano più degli italiani, il che è anche ovvio, perché arrivare in un paese significa cercare le condizioni al di fuori della rete di protezione che ciascuno di noi può avere al proprio paese. Quindi una popolazione più giovane della media nazionale, quasi 5 milioni abbiamo detto, metà sono donne, ma il 20% sono ragazzi sotto i 18 anni. Quindi una migrazione che genera anche questa grande seconda generazione con cui poi faremo i conti negli anni a venire. Conti che peraltro per ora ci aiutano anche nel sistema pensionistico. Oggi si è parlato a lungo di previdenza e sostegno delle giovani generazioni al lavoro. Insomma, un nucleo molto produttivo in cui i risultati economici, anche a sostegno della società, sono molto marcati. Nei titoli abbiamo detto 500.000 di giovani nel limbo. Già, 500.000. Chi sono questi ragazzi del limbo? Sono quei ragazzi di seconda generazione, nati in Italia assolutamente, da genitori stranieri, che per la legge italiana possono chiedere la nazionalità italiana solo al compimento dei 18 anni. Poi, burocrazia permettendo, diciamo che se va tutto bene, tra i 20 e i 21 anni sono italiani a tutti gli effetti. Questo pone un problema che è legato anche alle possibilità di imprenditoria dei ragazzi e delle famiglie, perché di fatto si vedono private di alcune possibilità. Un elemento crescente e anche, se vogliamo, il segnale di una maturazione del processo di immigrazione nel nostro paese. Grazie, grazie a Gigi Donelli. Abbiamo parlato dunque di immigrazione regolare, questa invece non lo è, infatti riprendono gli sbarchi sulla nostra costa. Un peschereccio con a bordo 128 uomini che si dichiarano di nazionalità palestinese è stato intercettato all'alba dalle motovedette della Guardia di Finanza di Catania. Sono stati arrestati 9 membri dell'equipaggio, tutti cittadini egiziani. Il comandante del gruppo aeronavale di Messina, Ioselito Minuto. È un bel peschereccio d'altura, sarebbe stato riutilizzato per altri sbarchi, cioè non sono le classiche carrette a perdere, cioè vengono dissimulati nel normale traffico e poi di notte puntano il nostro territorio e sbarcano alle ore più impensate e nelle zone più impensate. Consideri che rispetto alle aree tradizionali, questa notte avrebbe sbarcato in un'area della Sicilia che non ha precedenti di questo tipo, quindi le organizzazioni stanno in tutti i modi cercando di sopraffare quello che il dispositivo da noi è predisposto. Nonostante il mare molto agitato, si sono avvicinati a luci spente, noi eravamo in agguato. Una volta illuminato si è dato alla fuga, ne è nato un inseguimento di circa 5 ore, hanno fatto di tutto per non fermarsi, c'è una pratica marinaresca che si dice usare le cime, cioè si buttano delle corde in acqua per far sì che si possano in qualche modo bloccare le eliche di chi insegue, si è arreso a circa 35-40 miglia dalla costa siciliana. Tratta di persone, riduzione in schiavitù e violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 15 anni kosovara. Queste le pesantissime accuse nei confronti di 3 donne e 2 uomini di etnia rom, tutti imparentati fra loro, che sono stati arrestati dalla polizia nel campo nomadi di Coltano, in provincia di Pisa. La ragazzina era stata sostanzialmente comprata dai genitori per farla sposare con un altro quindicenne. Dopo un viaggio allucinante, narcotizzata, gli zii del ragazzino hanno costretto la quindicenne ad indossare un abito da sposa nella toilette di un'area di servizio e poi l'hanno portata nel campo nomadi pisano, dove è stato celebrato il matrimonio. Restiamo a Napoli, ma per l'iniziativa di Confindustria Orienta Giovani, che quest'anno ha come titolo La musica della tecnologia, il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, a margine poco fa, ha lanciato un appello al mondo politico ad occuparsi dei problemi veri del paese. Continua a pensare, ha detto la Marcegaglia, che il paese non possa permettersi una crisi, non possa permettersi di andare alle elezioni anticipate, a una campagna elettorale disastrosa in un momento come questo. Per quanto riguarda le affermazioni di Marchionne e da Fazio, secondo la Marcegaglia non ha affatto detto che intende lasciare l'Italia. Fiat, la famiglia John Elkann, ma lo stesso Marchionne, non hanno affatto detto che intendono lasciare l'Italia. Se un imprenditore decide di lasciare, chiude gli stabilimenti, non va in televisione, no? Li chiude e basta. A me è sembrato che l'appello di Marchionne sia un appello a cercare di risolvere i problemi italiani, che sono effettivi, perché il problema nei 10 anni della perdita di 30 punti percentuali di produttività rispetto alla Germania è un tema vero. Il fatto che in Italia le aziende in questi ultimi anni guadagnano sempre meno a causa del fisco, a causa del mercato, a causa delle relazioni sindacali, a causa delle infrastrutture, di tante cose, è un dato vero che, ripeto, non riguarda solo la Fiat, ma riguarda tutte le imprese italiane. Detto questo non deve diventare motivo di scontro, di divisione politica, ma invece dovrebbe diventare motivo di riunire le forze e cercare di affrontare questi problemi della produttività, dalla ricerca e innovazione alle infrastrutture, alle relazioni sindacali sulle quali stiamo cercando di lavorare. Ed ora il capitolo giustizia, che continua ad animare il dibattito politico. Ci colleghiamo in diretta con Elisabetta Fiorito. Silvio Berlusconi risponde a Gianfranco Fini Piera, che ha ribadito il suo no alla reattività dei processi, ma sì a Lodo Alfano. Con questi PM, spiega Berlusconi, Lodo Alfano è indispensabile proprio a causa di questi comportamenti dei magistrati politicizzati. I nostri parlamentari sono in procinto di chiedere una commissione d'inchiesta. Quanto alle vicende giudiziarie, Berlusconi continua a sostenere la tesi di non aver mai commesso reati. Una risposta quindi a Fini, che ieri aveva paventato una crisi di governo proprio sulla giustizia. E questa mattina su questo punto è intervenuto anche il guardasigilli Angelino Alfano. Sentiamo. Noi crediamo che la giustizia possa invece essere un terreno di modernizzazione del sistema, dalla efficienza dei servizi informatici per rendere più rapido il processo civile ad una riforma costituzionale che assolve ad un altro compito, cioè rendere pari l'accusa e la difesa di fronte a un giudice terzo. Questi sono i principi per i quali lavoriamo. Io non vedo all'orizzonte rischi di crisi di governo in materia di giustizia. Oggi pomeriggio alle 14.30 iniziano le votazioni in Commissione Affari Costituzionali del Senato su Lodo Alfano. Riguardo alla reattività dei processi approvata la scorsa settimana e contestata da Fini, il ministro Alfano spiega non è una marcia indietro ma una considerazione di buonsenso. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie, grazie ad Elisabetta Fiorito. E stiamo al calcio, nessun italiano nella corsa al pallone d'oro, tra i favoriti invece l'olandese Schneider e lo spagnolo Iniesta. Non è una novità, ma vederlo nero su bianco non fa piacere. Anche nel calcio, come direbbe Sergio Marchionne, siamo poco competitivi. Non c'è alcun italiano, infatti, fra i 23 giocatori candidati al pallone d'oro. Nell'elenco di FIFA e France Football, ma non è una gran consolazione, figurano invece ben 4 interisti: Schneider, Eto'o, Julio Cesar e Maicon. Niente Italia quindi, ma non poteva andare diversamente, visto che la scelta è legata alla classifica delle prime 8 nazioni del campionato del mondo, più fuori classe Ronaldo, Eto'o e Drogba. Ma il comune mezzo gaudio, mettiamola così, visto che anche inglesi e francesi sono stati bocciati. Tra gli argentini c'è solo Messi, ma la curiosità è l'assenza di Milito, splendido nell'Inter ma deludente in Sudafrica. Il pallone d'oro sarà assegnato il 10 gennaio 2011 da una giuria di commissari tecnici, capitani delle nazionali e da giornalisti. L'unica certezza è che qualunque sia la scelta verrà criticata. Ma il bello è proprio questo. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato del terremoto e dello tsunami che si sono verificati in Indonesia. Al momento si parla già di decine di morti e centinaia di dispersi. Abbiamo poi parlato del dossier Caritas. Sono quasi 5 milioni, l'avete sentito, gli immigrati irregolari nel nostro paese e nel limbo si trovano mezzo milione di giovani. E poi la brutta notizia, il pallone d'oro. Nessun candidato italiano, ma ci sono 4 interisti. Ripartiamo dal viaggio di Napolitano in Cina. La Cina deve proseguire il cammino intrapreso delle riforme politiche per rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e verso l'apertura e la liberalizzazione dei mercati. Così il Presidente della Repubblica, appunto Napolitano, nel discorso alla scuola centrale del Partito Comunista Cinese. E in Iraq è arrivata la condanna a morte per Tareq Aziz, una condanna inaccettabile per l'Unione Europea e l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Catherine Ashton, che chiederà all'Iraq di bloccare l'esecuzione. Il commento di Alberto Negri del Sole 24 Ore. Tra poche ore, secondo il suo avvocato italiano Mario Lana, Tareq Aziz, il vice di Saddam Hussein, potrebbe salire sulla forca. È stato infatti condannato oggi a morte dall'alta corte penale irachena per la persecuzione dei partiti islamici sciiti. Tareq Aziz, 74 anni, era l'unico cristiano cattolico di fede caldea ai vertici del partito Baath. Nato a Mosul nel 1936, il suo vero nome era Mikhail Yuan ed era diventato noto in tutto il mondo quando nel febbraio 2003 era stato ricevuto in Vaticano da Papa Giovanni Paolo II in un estremo tentativo di evitare la guerra. Professore d'inglese, giornalista, amante dei sigari del whisky, Tareq Aziz appariva come il volto umano di un regime crudele e sembrava dovesse essere risparmiato dalla forca, dove sono già saliti Saddam Hussein e il genero Ali il Chimico. Se verrà impiccato, insieme al segretario di Saddam Ahmad e all'ex ministro degli interni Shaker, sparirà un altro scomodo protagonista e testimone del fosco regime iracheno. E anche qua si parla di una condanna a morte, ma al momento per fortuna sospesa. Siamo in Arizona, dunque negli Stati Uniti. Il farmaco per anestetizzare il condannato a morte potrebbe non essere a norma. Quella di Jeffrey Landrigan ieri doveva essere la 44esima esecuzione capitale del 2010 negli Stati Uniti. Invece Landrigan, un uomo di 48 anni che nel 1990 venne condannato a morte per omicidio, è ancora vivo. La sua esecuzione è stata sospesa. Un giudice federale di Phoenix, infatti, ha colto le obiezioni della difesa relative all'anestetico da usare durante l'iniezione letale. L'unico laboratorio statunitense che fornisce il sodio tiopental per le esecuzioni ha esaurito le scorte diverse settimane fa e non riuscirà a produrne di nuove prima del 2011. Gli stati dell'Arizona e della California si sono comunque procurati delle dosi di anestetico che devono per forza venire dall'estero, forse dall'India o dalla Cina. I legali di Jeffrey Landrigan hanno sostenuto che l'uomo rischiava di soffocare con enormi sofferenze se il prodotto sconosciuto non avesse agito in modo appropriato. Il giudice federale Roslyn Silver ha accolto le loro perplessità e ha sospeso l'esecuzione. Alice Cason, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo negli Stati Uniti, che si avviano verso le elezioni di midterm. Here in Alaska, I always think of the mama grizzly bears that rise up on their hind legs when somebody's coming. Questo è l'appello alle mamme grizzly di Sarah Palin. La leader dei Tea Party sta mobilitando anche le mamme nella corsa alle elezioni di medio termine, appuntamento cruciale, come sapete, per gli Stati Uniti. Le mamme orso, dice, sono pronte a tutto per dare sicurezza ai loro cuccioli. Una tappa nella campagna per mobilitare la classe media al voto. Non è la prima volta che le mamme sono chiamate in causa nelle elezioni americane, lo fece fra gli altri anche Obama, che poté contare sulle soccer mom, quelle che accompagnano i figli a giocare a calcio, come fa la First Lady Michelle. Torniamo in Italia con Orienta Giovani, ne abbiamo parlato anche nella prima parte del GR con le dichiarazioni della Marcegaglia, si parla infatti dell'iniziativa di Confindustria che quest'anno si svolge a Napoli, ha per titolo La musica della tecnologia, in diretta Paolo Picone. Paolo? Riprenderemo dopo Paolo Picone, ora invece l'appuntamento con l'Italia che riparte. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Nel 2010 Rembo è tornata a crescere oltre il 20%, dopo un 2009 che aveva visto una flessione rispetto al 2008 di circa il 3%. Questa flessione si inquadra in un periodo di crescita dove crescevamo nell'ultimo triennio a una crescita media di circa il 18%, per cui è stata una battuta d'arresto in un trend consolidato. In ripresa anche l'animazione Made in Italy, come spiega Andrea Severini, CFO della Rainbow, l'azienda marchigiana di animazione salita alla ribalta internazionale grazie alla popolarissima serie di cartoni animati Il fenomeno delle fatine Winx. Si trova a Loreto, ha inaugurato una nuova sede per 3.000 metri quadrati di uffici, impiega circa 300 dipendenti in tutto il mondo e ha registrato nel 2009 un fatturato di circa 50 milioni di euro. Ecco come ha reagito. Strategicamente abbiamo pensato che era opportuno rifocalizzarsi, come avevamo fatto in passato, su mercati esteri come aree di sviluppo. Poi abbiamo ulteriormente puntato sull'innovazione di prodotto. Il fenomeno Winx è stato sicuramente ben sfruttato sui mercati europei. L'idea è quello di riuscire a ottenere gli stessi risultati su mercati che fino ad ora erano stati poco esplorati, in particolare il mercato statunitense, l'America Latina e il mercato asiatico. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci riproviamo allora a collegarci con Napoli, con Orienta Giovane, con il nostro Paolo Picone. Paolo. Sì, buongiorno. Investire in tecnologie e scienze è una scelta saggia per gli studenti e per le imprese. La musica della tecnologia deve suonare nelle nostre scuole, nelle nostre imprese, nella nostra società. E questo il tema al centro della giornata nazionale Orienta Giovane, giunta alla sua 17ª edizione in corso a Napoli. E tra gli studenti che hanno partecipato, uno dei temi affrontati è stato anche quello dell'emergenza rifiuti a Napoli e nel napoletano, e i ragazzi si sono detti certi ai nostri microfoni di non trovarsi in futuro nella stessa situazione delle generazioni attuali, perché loro già a scuola da tempo effettuano la raccolta differenziata, che per loro è alla base di una corretta gestione appunto della raccolta rifiuti e dell'emergenza rifiuti. Da Napoli per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Paolo Picone. Ci trasferiamo invece in Sardegna, dove la Giunta ha indetto per stasera un incontro con le associazioni legate ad agricoltura e pastorizia. Grande assente il movimento dei pastori sardi, che continua ad occupare la sede del Consiglio regionale. Ugo Cappellacci, presidente della Regione Sardegna, ai microfoni di Ambra Notari. C'è ampia disponibilità a discutere del merito e quindi esaminare i problemi per trovare le soluzioni, ho condizionato questa disponibilità alla liberazione dell'Aula del Parlamento. Se siamo interessati ai problemi e quindi, come dire, si ragiona su una forma di sindacalismo democratico, allora non vedo quale tipo di problema ci sia. Se invece problemi ci sono, allora diventa più un antagonismo istituzionale. Secca la risposta di Felice Floris, leader dei Pastori Sardi. Noi rispondiamo picche, perché insomma, come fa uno a fidarsi di gente che dal mattino al pomeriggio, nel giro di poche ore, cambia atteggiamento? Se oggi non si muove niente, venerdì Cagliari sarà invasa da 10, 15, 20 mila pastori. Stiamo già lavorando su questo. Ogni ultimo martedì del mese aperture straordinarie e gratuite dei principali musei statali dalle 19 alle 23. Un'iniziativa che vuole coinvolgere un pubblico sempre più numeroso con proposte alternative ai consueti svaghi serali e andare incontro alle difficoltà economiche, soprattutto di giovani e famiglie. L'elenco completo delle iniziative sul sito beniculturali.it. Sentiamo il direttore generale per la valorizzazione dei beni culturali, Mario Resca, al microfono di Adriana Fracchia. L'ultimo martedì del mese, in realtà è l'ultima settimana, la gente non ha più soldi, non può più andare al cinema, non può andare ai supermercati, non può andare in discoteca, non può andare al ristorante, e offriamo la possibilità invece di venire ai nostri musei gratuitamente, e quindi questo è l'obiettivo: aiutare, dare un piccolo contributo anche noi in un momento di recessione, dando in fruizione questo che è la grandiosità della nostra storia, delle nostre radici, della nostra arte, del bello, di tutti i nostri grandi autori che nei secoli si sono avvicendati, e quindi questa è una possibilità che diamo di venire in orari convenienti alle persone, finalmente, non solo al turista che è in vacanza, ma alle persone normali che lavorano e possono veramente fruire di questo patrimonio. Qualche evento di oggi come chicca? Pompei del Colano, per esempio, offrono degustazioni di prodotti tipici campani e concerti di musica classica. Alle Terme Diocleziano di Roma avremo due giovani attori emergenti che leggono alcuni brani tratti dalla letteratura classica latina, eventi che possono essere consultati sul nostro sito. Quante volte vi sarà capitato, almeno insomma se ne avete l'età, di ascoltare un vecchio disco delle Zeppelin sul giradischi o in cassetta con il Walkman? Purtroppo ora entrambi stanno per andare definitivamente in pensione. A pochi giorni dall'annuncio dell'uscita dal mercato del giradischi Technics di Panasonic, anche Sony, con estremo dispiacere degli amanti della tecnologia più datata, smetterà di produrre il suo mitico mangiacassette, noto dal 79 come Walkman. Lettori MP3 e iPod hanno ormai colonizzato definitivamente il settore della musica. Ed era l'ultima notizia di questo GR24. Ci risentiamo alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.